falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. A me piacciono molto i chiaroscuri, mi piacciono le storie in cui non c'è una sola via interpretativa. Io non credo che ci siano i buoni da una parte e i cattivi dall'altra. E quindi oggi raccontiamo proprio una di quelle storie che piacciono a me, piena di contraddizioni. Parliamo di una cantante irlandese che ha vissuto la sua vita senza alcuna paura di esprimere il suo pensiero, al di là invece di un aspetto molto delicato, molto fragile. Una donna che deve il suo successo mondiale a una sola bellissima canzone d'amore, che però ha interpretato con una grinta unica. Una donna che si è scagliata prima contro la Chiesa Cattolica, contro le istituzioni politiche, per poi dichiarare di volere prendere i voti. Insomma, parliamo di quella che è stata soprannominata il leone con gli occhi da cerbiato, Sinéad O'Connor. E la nostra storia inizia a Dublino nel 1966. La famiglia O'Connor è una tipica famiglia della middle class irlandese. Il padre John è un uomo molto istruito, tenace, caparbio e credo che si possa dire che ha trasmesso lui questo lato del carattere alla figlia. La musica è un elemento presente in tutti i componenti della famiglia, con partecipazioni ai cori della chiesa. Lei ha una sorella che adora la musica classica, un padre che ama il musical. A 15 anni Sinéad è già innamorata della musica, capisce che la sua passione è destinata a essere l'unico interesse della sua vita. Qualunque pretesto era buono per fare della musica, e forse non era nemmeno necessario averlo un pretesto. Ricordo che da piccola, quando uscivo a passeggio, componevo delle specie di canzoncine. Ero talmente incasinata che desideravo produrre dei rumori o qualcosa del genere, gridare, urlare tutta la mia sofferenza. Eh sì, di sofferenza si parla, perché la storia volge al peggio. Il matrimonio dei genitori di Sinéad finisce male. Lei a 9 anni si trova a vivere con la madre, che soffre di disturbi psicologici derivanti dall'alcolismo, dalla depressione, e tutta la sua confusione mentale viene riversata sui figli, in particolare su lei, su Sinéad, che addirittura in età adulta dichiarerà di avere subito abusi sessuali proprio da parte della madre. Quando accadono certe cose, un bambino pensa sempre che sia colpa sua. Quella situazione ha creato un gran casino nella mia vita, che è durato molto tempo. Con la situazione della mia famiglia da un lato e il cattolicesimo dall'altro, ho sviluppato una notevole predisposizione al senso di colpa. Quindi ecco che la musica, come spesso accade ai musicisti, diventa un rifugio nel quale nascondersi dagli aspetti negativi della vita. E lei ha 14 anni quando canta a una festa di nozze e viene notata da Paul Byrne. Paul Byrne è il bassista di una band di culto irlandese, si chiamano In Tua Nua, qualcuno se li ricorderà. L'Irlanda, dopo il successo degli U2, sta vivendo un momento di grande fermento musicale. Beh, è una band che non ha idee chiarissime, formata da diciottenni, travolti insomma dall'entusiasmo tipico di chi sta iniziando. Sinéad sembra essere un faro nella notte per loro, perché scrive, arrangia, ovviamente canta. Alla fine esce un singolo che ha un discreto successo, si chiama Take My Hand. Ma lei è ancora poco più che una bambina, non è il momento di vivere una vita in libertà. A causa dei problemi che ha la madre, lei intanto è chiusa in un collegio di suore. Un altro indizio importante, perché è un'esperienza che segna ancora di più quel carattere forte ma anche fragile, perché lei considera quel luogo una prigione, comincia a covare un odio profondo verso il clero, i preti, le suore, che in un'Irlanda super religiosa educano i giovani, accentuando i sensi di colpa e anche la repressione della propria creatività. Insomma, almeno questo è il suo pensiero. Not that he's not worse, 'cause you know it's over serious. So warm inside, when he takes me for a buggy ride. Dopo l'esperienza degli Intuanua, Sinede va in un altro gruppo che si chiama i Ton Ton Macute. In realtà comincia lei a farsi conoscere negli studi di registrazione. Molti cominciano a scommettere sulla voce di questa ragazzina che sul palco sfodera una voce da leone, è destinata a esplodere con tutto il suo talento. Tra l'altro in quel periodo non sono solo gli U2 che vanno forte, perché c'erano già stati Bob Geldof e i Boomtown Rats. C'è un interesse per la musica irlandese e il gruppo di cui fa parte Sinéad O'Connor comincia a avere successo a livello locale, però non riesce a sfondare. Ma tutti notano sul palco la ragazza, la front woman, che si trasforma appena si accendono le luci dei riflettori. Io mi trasformo in una persona completamente diversa non appena vado in scena. Non esercito alcun controllo, semplicemente cambio. Me ne sto là con un bagliore nero negli occhi, non so neanche cosa sia, so solo che sento l'impulso di cantare e di urlare. Come sempre accade in questi casi, c'è un manager che nota il cantante in questione, in questo caso la cantante. Il manager lavora per la Mother, l'etichetta che Bono e The Edge hanno creato per aiutare i gruppi esordienti. Poi hanno lavorato già anche con Bob Geldof e i Boomtown Rats. Insomma, a un certo punto Sinéad si trova a scrivere addirittura canzoni con The Edge. Tutto sembra incanalato su un binario positivo, però la vita di Sinéad deraglia con una notizia che le sconvolge la vita. Nell'85 la madre con cui aveva avuto questo rapporto così terribilmente controverso muore in un incidente d'auto, e qui esplode il suo spirito ribelle, lo spirito di Sinéad, esplodono i sensi di colpa di cui ha sofferto da bambina. Insomma, prende posizione anche fisicamente, si rasa la testa, il suo sguardo fragile lascia il posto ad un rancore che mai sarà sopito completamente. Sinéad O'Connor trasforma in musica il suo dolore per la morte di una madre così amata e odiata. Non era una persona felice, non era contenta della sua vita e ho sempre avuto comprensione per lei. Non ho mai nutrito odio o amarezza nei suoi confronti. Avevo capito sin da piccola che non sapeva quello che faceva e non agiva di proposito. Adesso comprendo e sono in grado di dire: povera donna, che vita di merda deve aver fatto. Come donna irlandese, credo che avrebbe dovuto avere la possibilità di trovare un nuovo compagno, avrebbe dovuto avere l'opportunità anche di risposarsi. Se fossi stata al suo posto, mi sarei comportata proprio come ha fatto lei, piegando le regole. E lei le regole inizia a piegarle già dal suo aspetto. Intanto si rade a zero i capelli e nel corso degli anni darà almeno 5 versioni diverse sulle ragioni che l'hanno portata a compiere questo gesto. E questo accresce il pensiero che il suo carattere sia, come dire, un groviglio di personalità diverse e contraddittorie. Troverete in tutta la sua carriera affermazioni dette, poi smentite, ritrattate, stravolte su chiesa, politica, musica, colleghi. Insomma, è una donna dalle mille facce e nessuno sembra in grado di conoscerla fino in fondo. Alcuni pensano, vedendomi, che io abbia un carattere forte, che sia molto aggressiva, che odi la religione, ma questa non è la verità. Chi mi conosce sa che sono una persona sensibile, è un modo molto personale di mettermi in relazione con la gente. Insomma, non ho ancora tagliato la testa a nessuno, E intanto siamo nel 1987 e lei sta lavorando finalmente al suo primo disco da solista. I suoi produttori vorrebbero impostare tutto sui suoni irlandesi classici, con un'immagine eterea, bucolica. È un'operazione, diciamo, quella che anni dopo riuscirà con Enya, ma lei non è Enya, lei non ci sta, il disco va per le lunghe. E poi c'è un secondo motivo per cui la cantante non è completamente concentrata, perché a 19 anni rimane incinta. Ero molto felice quando rimasi incinta e andai dal medico della mia casa discografica e anche lui disse di essere felice per me, che avrebbe avvertito lui i miei produttori. Quando tornai per la visita successiva mi disse che la mia casa discografica non voleva che avessi un bambino e che non potevo tenerlo perché c'era in ballo la promozione del disco. Io avevo 19 anni e gli dissi che si fottano. Insomma, lei non abortisce e esce comunque l'album The Lion and the Cobra. Dentro a quest'album c'è una canzone che si chiama Mandinka, che è la canzone che abbiamo appena sentito, un esordio fulminante. Lei va nelle classifiche di tutto il mondo, riceve una nomination al Grammy, piace al pubblico, piace alla critica, perché è un disco nel quale si alternano vari sentimenti come la rabbia post-punk e atmosfere ancestrali di canzoni, anche lunghe, complesse, articolate, in cui lei riesce a dare sfogo alle sue capacità vocali e viene addirittura paragonata a Janis Joplin. Io non sono una rockstar, io sono solo un essere umano e questo improvviso successo mi ha travolto. Io non voglio essere trattata come una star, sono solo una donna che è diventata famosa per caso quando era ancora una bambina ed è cresciuta sempre sotto i riflettori. Io faccio dischi perché gli altri li ascoltino, mica per venderli o diventare ricca e famosa. Voglio solo scrivere musica e inciderla su un disco perché rimanga anche agli altri. Eh sì, insomma, comincia a delinearsi una spaccatura tra il suo carattere e le esigenze dello show business. Per il suo secondo album il suo produttore ha in serbo qualcosa di speciale, perché nell'85 Prince, quello di Purple Rain, scrive una canzone per uno dei tanti artisti che prova a lanciare, e il duo in questione si chiama The Family e canta così. It's been 7 hours and 13 days since you took your love away. Passa inosservato al pubblico, però Osilleg, che era il produttore di cui parlavamo prima, lo propone a Sinéad O'Connor, che inizia a lavorarci. Quando nel 90 l'album è pronto c'è anche questa cover. Nel frattempo Sinéad, abbisticciato col suo produttore, lo licenzia, quindi arriva alla data in cui deve essere girato il video di Nothing Compares to You, stremata dal lavoro fatto per la promozione. Il regista, che si chiama John Maybury, intanto è uno che ha lavorato con molti artisti, Boy George, Everything But The Girl, ha avuto per questo video l'idea di puntare tutto sul volto di Sinéad O'Connor. Un primo piano dall'inizio alla fine, lei deve solo cantare, ma il leone con gli occhi da cerbiatto ha in serbo un colpo d'ala che cambia definitivamente tutta la sua vita. Il video di Nothing Compares to You rimane nella storia di video musicali e tra poco vi diremo il perché. Raccontando la storia di Sinéad O'Connor, la cantante irlandese dal carattere imprevedibile, ribelle, a 19 anni madre di un bambino, e poi il grande successo arrivato nel 90 proprio con Nothing Compares to You, una canzone che le ha scritto, anzi che Prince ha scritto, e la svolta avviene durante le riprese del video, perché tutto avviene con una telecamera fissa sul volto della cantante. Bene, a un certo punto Sinéad lascia cadere sulla guancia due lacrime, la truppa ascolta in silenzio, nessuno vuole rovinare quel momento, è un colpo d'ala inaspettato, il video che ne viene fuori un pugno nello stomaco che accentua la bellezza e l'intensità della canzone, ma soprattutto di lei. Quella ripresa rimane l'unica effettuata dal regista. Buona la prima, tutti a casa. Non l'avevo previsto, ma quando me ne accorsi, pensai di lasciare che accadesse. Qualcuno ha pensato che tutto fosse finto, il classico piatto di cipolle fuori campo, sai? Ma le mie lacrime erano autentiche, troppo fottutamente autentiche. Ero molto incasinata in quel periodo, ero stressatissima, avevo appena rotto col mio manager e sembrava che tutto stesse andando a rotoli. Bene, la canzone balza in cima alle classifiche, il video riceve la nomination ai Grammy Awards e beh, in tutta questa situazione Prince non sapeva ancora nulla e incontra casualmente la cantante una sera a casa sua. Beh, e Prince è un tipo particolare, egocentrico, si circonda di bellissime donne anche se non si sa bene cosa se ne faccia, è molto piccolo e gira con tacchi altissimi. Insomma, lo scontro è inevitabile quando due persone con un ego particolare si incontrano. Sinéad accusa Prince addirittura di averla minacciata e quasi picchiata. I due naturalmente non si vedranno più. Credo sarebbe giusto dire che detesto profondamente Prince. Il problema è nato dal fatto che ho inciso una delle sue canzoni senza coinvolgerlo e lui è geloso. Mi ha detto che non avrebbe mai voluto che facessi la sua canzone, ok? Tranquillo, non accadrà più. Però sono convinta che quella canzone abbia salvato il suo fottuto culo. Era sommerso di debiti prima che la mia canzone uscisse. La frizione tra Prince e Sinéad O'Connor è anche causata da un atteggiamento molto negativo che lei ha nei confronti degli Stati Uniti. Intanto rifiuta di partecipare a una puntata del Saturday Night Live a causa della presenza nella stessa puntata di un comico che lei ritiene antifemminista e xenofobo. Poi fa uno sgarbo al patriottico pubblico americano perché si rifiuta di aprire un suo concerto cantando l'inno americano. Oddio, si dice che lo stesso Frank Sinatra abbia dichiarato che avrebbe voluto prenderla a calci nel culo, figuriamoci. Io non ho nessun problema con l'America e gli americani e la loro bandiera. Io sono contraria a qualsiasi forma di abuso e ingiustizia sociale. Io sono contraria a qualsiasi forma di sottomissione politica, religiosa e anche a quella del mondo della musica. Io credo nella razza umana e non voglio che subisca nessuna forma di segregazione. Insomma, lo strappo dopo questa controdichiarazione sembra, non dico ricucito, ma arginato, perché gli americani basta che sentano che non si odia la bandiera e i cheeseburger e sono felici, sono veramente dei sempliciotti, per cui per quella volta è passata. Però lei nasconde un carattere combattivo e a volte incontrollabile dietro a questo aspetto dolcissimo, e sentite come lo stesso Arsenio Hall, quello del talk show di cui parlavamo prima, la copre di complimenti. And that day you felt ugly and hideous? I feel ugly and hideous today as well. Stop! Don't you realize that you can't cut your head bald and look this beautiful if you're ugly and hideous? Wow. You're a very attractive woman. You can't believe you're ugly and hideous. È sì, perché l'ambiguità del carattere del personaggio di Sinéad O'Connor è proprio sta nell'accostamento che la natura ha fatto, perché una donna con due occhi profondi, capaci di fare innamorare chiunque, poi invece un carattere estremista, violento. Tutti sono un po' disorientati, non i critici musicali, però, che negli anni 90 la considerano una cantante dalle qualità vocali uniche. Però nel 92 è in agguato un altro guaio, perché questa volta non si indignano solo gli americani. We have confidence in the victory of good over evil. Fight the real enemy. Avete sentito nello studio il gelo, nessuno ha fatto nulla. È una puntata del Saturday Night Live del 1992 e lei sta cantando a cappella il brano War di Bob Marley. Ovviamente non avverte nessuno, mentre pronuncia il verso della canzone Fight the Real Enemy, combatti il vero nemico, lei prende una foto di Giovanni Paolo II e la straccia davanti alle telecamere di tutto il mondo. Il gesto lei lo fa per protestare, e non è a tutti i torti, contro la chiesa irlandese che mette a tacere gli atti di abusi sui minori da parte del clero e proteggendo i preti pedofili, insomma, cosa che poi si è ampiamente dimostrata. Certo che strappare una foto del Papa in una diretta televisiva, insomma, non le può attirare grandi simpatie. Scandalo, è un gesto che travolge la carriera della cantante, che viene additata come eretica, ma soprattutto come squilibrata, e la carriera ne risente. E come? Stop alle apparizioni televisive, e tutto il mercato discografico inizia a boicottarla. Non si scherza col Papa in questo mondo. E il successo declina rapidamente. Gli anni successivi sono anni di puro oblio, non servono scuse pubbliche, giustificazioni della cantante che afferma di non avercela direttamente col Papa, ma con la Chiesa e le ingerenze politiche della Chiesa in Irlanda. Insomma, secondo me aveva ragione, però così come se l'è giocata, ha fatto un autogol veramente quasi irreparabile. Cercavo di trasportare su di me un dolore grande come l'Empire State Building. Ero piena di dolcezza, ma anche di rabbia, e se non la buttavo fuori rischiavo di impazzire. Oggi mi sento forte e ho un'immensa fede in Dio. Siamo nel 99, con questa dichiarazione Sinéad O'Connor trova quantomeno il suo equilibrio, anche se non è che da quel momento torni a essere una cantante di fama globale. Dopodiché, con il nome di Suor Bernadette Marie, diventa prete, una specie di predicatrice per ordine religioso. Peraltro, insomma, il Vaticano non la riconosce come tale. Lei alterna frasi a effetto, dichiarazioni in shock con atti invece di generosità e di spirito umanitario. Nel 2000, tanto per non farsi mancare nulla, dichiara di essere bisessuale e poi però partecipa a eventi di raccolta fondi per la Croce Rossa. Insomma, il suo equilibrio mentale deriva da una personalità totalmente bipolare che la porta a dire tutto e il contrario di tutto, e prende una posizione su un argomento e poi si comporta nel modo opposto. Sicuramente lei rappresenta un prolifico oggetto giornalistico per le pagine di gossip. Chained our hearts in vain, we jumped, never asking why. E poi c'è l'ultimo battibecco, quello tra lei e Miley Cyrus. Dunque, è uno scambio di battute, di tweet, perché oggi le liti si fanno anche e soprattutto su Twitter. Sinéad dice alla giovane Miley di non lasciarsi sopraffare dallo show business e di non comportarsi come una puttanella, cosa, insomma, come darle torto. Miley però non è una che si fa dire le cose, è una bella svelta, quindi risponde a Sinéad di preoccuparsi dei suoi problemi mentali. Insomma, è una battaglia verbale che il DJ Robin Scooteris risolve creando questa versione che stiamo sentendo, la versione di Wrecking Ball, sulla base del più famoso pezzo di Sinead O'Connor, quel Nothing Compares to You, che ha fatto scendere le lacrime sulle bianche guance di questa ragazzina irlandese, lacrime che hanno conquistato, anche se solo per una stagione, il mondo. Vita di Sinead O'Connor si può definire straordinaria, anche se estremamente sofferta, contraddittoria, una persona bipolare come molti artisti sono, con diciamo delle fasi estreme anche un po' preoccupanti, ma con il meraviglioso ricordo di quelle bellissime lacrime in quel video che ha commosso e intrigato il mondo. Noi vi aspettiamo con altre storie e se avete qualcosa che pensate meriti di essere raccontato, scriveteci, scrivete, se mi cercate mi trovate sulla pagina Facebook, sulle mie, sulla mail ilfalcoilgabbiano@radio24.it, insomma, attendo vostre notizie. A domani. Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Dodo Chipinti.